Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Sapete che cos'è l'indice rossetto e cosa significa in tempi di crisi? Lo scopriremo tra pochissimo, ne parleremo nel primo dei nostri approfondimenti, perché la crisi per la prima volta mette in dubbio anche le certezze in tema di prodotti di bellezza, e sarà l'occasione per fare il punto sul settore, per scoprire le ultime tendenze e le novità in arrivo per i prossimi mesi. Focus sui trend dedicato invece ai consumi antispreco, quando non buttar via niente fa tendenza. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. Crolla il potere d'acquisto delle famiglie, cala la spesa e i consumi vanno a picco. Tanto che Confcommercio parla dell'anno peggiore dal secondo dopoguerra. Secondo l'Istat, nei primi 9 mesi del 2012 sono in flessione potere d'acquisto -4%, reddito disponibile e spesa delle famiglie -2%. Una famiglia su due, rileva intanto la Confederazione Italiana Agricoltori, taglia il budget per le spese alimentari, riducendo dosi e quantità acquistate, e in 3 casi su 5 cambia il modo di fare la spesa, andando a caccia di offerte e rivolgendosi sempre più spesso ai discount. In tempo di saldi e in attesa della nuova stagione, anche i musei si danno alle promozioni. Fino al 20 gennaio, biglietti a prezzi ridotti al Maxi di Roma, il primo a lanciare la tendenza. Dalla pubblicità dei prodotti ai banchetti politici, passando per gli assalti ai forni e le sagre di paese. È una vera e propria storia d'Italia, vista attraverso il cibo sulle copertine dei periodici italiani, dalla seconda metà dell'Ottocento ad oggi, quella raccontata nella mostra Cibo in copertina, riviste illustrate dalla collezione Rapisard. Negli spazi Italy di Roma, fino a giugno. Negli anni Ottanta esisteva una sola discoteca famosa in tutto il mondo, lo Studio 54 di New York. Oggi lo storico locale notturno di Manhattan torna in vita, anche se solo per un giorno, grazie a un'asta programmata per il 19 gennaio, nella quale verranno battuti alcuni cimeli del club. La borsa della spesa. Che ne dice di una buona iniezione di collagene, no? Iniezione di collagene! Tanto vale che vada a casa e mi lavi la faccia con acqua e sapone! Ma se vuole le posso truccare personalmente! Il trucco non serve a niente! Non c'è niente che serva più! Indimenticabile Meryl Streep nella Morte ti fa bella ci serve a proporvi questo interrogativo. Nel profondo di una crisi di cui non si vede la fine, con il potere d'acquisto delle famiglie in picchiata, lo abbiamo appena sentito nel rullo notizie, è finito anche l'effetto consolatorio del trucco, della cosmetica? Per la prima volta l'indagine annuale di Unipro, l'Associazione Italiana delle Imprese Cosmetiche, riporta il segno meno. I consumi dei prodotti di bellezza segnano il passo. Nel 2012 il mercato registra una flessione dell'1,4% rispetto al 2011, anche se le esportazioni tengono e i valori del settore restano importanti, vicini ai 10 miliardi di euro. Il cosiddetto lipstick index, l'indice rossetto che in tempi di crisi, da quella del 29 in avanti, sale perché al trucco non si rinuncia, anche e soprattutto per l'effetto antidepressivo, non è più un indicatore economico affidabile. Abbiamo fatto il punto della situazione con il presidente di Unipro, Fabio Rossello. Non parlerei ancora di crisi, ma di una vera e propria contingenza sulla contrazione dei consumi che ci sono, perché il cosmetico è diventato un consumo irrinunciabile. I volumi non è che siano diminuiti globalmente, sono apparse catene a prezzi anche molto bassi che stanno facendo fatturati decisamente in crescita a due cifre, e quindi abbiamo uno spostamento un pochino del consumo. Diciamo che il lusso, il super lusso sicuramente segna un pochino il passo, e soprattutto segnano il passo alcuni canali. La grande distribuzione sostanzialmente è stabile, con alcuni elementi di contrazione di prezzi, ripeto, anche qui, e con i volumi che comunque tengono. I canali specializzati, quindi compresa la farmacia, che fino all'anno scorso è andata ancora molto bene, e cominciano a segnare un pochino il passo. Abbiamo invece contrazioni più che doppie su canali come la profumeria, e invece canale per esempio dei professionali, quindi delle estetiste, quella vendita di prodotti per il tramite delle estetiste, la vendita di prodotti per il tramite degli acconciatori, che invece ha dei cali che sono più significativi, anche superiori al 5%. L'erboristeria, per esempio, invece mantiene un trend positivo, questo ma anche legato sempre a questo sentiment che le persone hanno verso il naturale, indipendentemente dal valore assoluto o qualitativo del prodotto naturale. Quindi nel complesso noi stiamo seguendo questa ciclicità che continua a vedere un potere d'acquisto che diminuisce, lo spostamento verso prodotti di fascia più bassa e soprattutto comunque l'export sta continuando. Noi rappresentiamo circa il 65% del make-up prodotto nel mondo, ce lo produciamo in Italia, poi magari viene marchiato con altri brand, questo è un grandissimo raggiunto. Resta il valore consolatorio, per così dire, del cosmetico in tempo di crisi? Non è esclusivamente consolatorio, il cosmetico diventa irrinunciabile perché ci aiuta a star meglio con noi stessi, quindi anche l'uomo, un 30% di tutto quello di cui stiamo parlando ormai è utilizzato dall'uomo, con grande crescita. Il valore consolatorio sta nel fatto che noi riusciamo a stare un pochino meglio con noi stessi quando utilizziamo un cosmetico, perché ci sentiamo più puliti, ci sentiamo un po' più belli perché utilizziamo il make-up, oppure correggiamo alcune imperfezioni, oppure ci aiutiamo a non invecchiare troppo precocemente idratando la pelle e quant'altro. Ma io direi c'è qualcosa di più che questo aspetto di riuscire a darci un pochino più di autostima in un momento in cui ce n'è oggettivamente bisogno, perché la crisi oggi non è soltanto una crisi economica, ma è una crisi valoriale. Ciao, la mia missione, lo sapete, è darvi consigli utili e pratici per essere sempre bellissime. Certo, quando si hanno a disposizione tanti trucchi è facile, però oggi voglio farvi vedere come essere impeccabili anche in situazioni meno comode. Infatti Federica, la mia prima ospite, mi ha chiesto proprio un consiglio di questo tipo. Farina? Frutta? Zucchero? No, non voglio mettermi a preparare una torta, sto pensando agli ingredienti per le prossime ricette di bellezza, ma intanto gustatevi quella di oggi! In molti l'avrete riconosciuta, si tratta di Clio, la celebre make-up artist lanciata da un cliccatissimo canale tutorial su YouTube, protagonista anche di una trasmissione su Real Time, Clio Makeup appunto. A lei abbiamo chiesto di svelarci qualche segreto e anticiparci le tendenze dei prossimi mesi. Vedremo tanto colori come il verde, il blu, sicuramente andremo verso la tendenza colore. Qual è secondo te il luogo comune più sbagliato in fatto di trucco? Ma il fatto che comunque si pensi subito che se una donna ha del colore sul viso sia molto truccata, mentre magari se una donna non ha colore non sia truccata, soprattutto gli uomini. Vedono magari una riga di eyeliner blu e pensano subito, oddio, è truccatissima. Invece in realtà no, perché comunque i trucchi più difficili da fare e i migliori sono quelli naturalissimi. E quindi ci capita magari di vedere una donna che è veramente molto truccata, ma non lo vediamo subito, quindi questo probabilmente è il luogo comune più diffuso, diciamo, ma soprattutto tra gli uomini. Com'è cambiato secondo te il make-up in questi anni? Beh, sicuramente è cambiato tanto l'approccio del trucco, nel senso che da quando ho iniziato a parlarne anche sul web noto che fa molto di più rispetto a una volta, quindi probabilmente anch'io e tante altre ragazze come me hanno iniziato questo movimento che fa amare di più il trucco, perché io comunque l'ho sempre amato ma non ho mai sentito veramente tanto parlare. Però adesso c'è questa moda, c'è la moda del trucco, se ne parla di più sui giornali, se ne parla di più alla televisione, se ne parla di più su internet, quindi le donne adesso sono più informate, quindi non si fanno più fregare, vanno dritte al colpo, sanno cosa vogliono, sanno cosa cercano, sanno come usare i prodotti. In chiusura ti chiedo di regalarci uno dei tuoi trucchi, un segreto, il consiglio numero uno in fatto di trucco. È un consiglio molto semplice e banale, però non viene mai ascoltato. Quando noi ad esempio compriamo un fondotinta, diciamo subito questo fondotinta non si stende bene, tutto dipende dalla pelle, quindi prima di pensare ai trucchi pensiamo veramente a quanto curiamo la pelle, pensiamo alla pulizia della pelle la sera, non serve andare per forza a spendere soldi, ma veramente con dei panni, con delle lozioni struccanti, anche semplicemente con un po' d'acqua, la crema giusta, cerchiamo di tenere la nostra pelle idratata, perché tutto parte da quello. Se la pelle è idratata, tutto quello che poi dopo metteremo sopra si stenderà meglio e risparmieremo anche soldi, perché non servirà a comprare il fondotinta super caro, ma potremo andare sulle cose un po' più economiche. Grazie a Clio Zammateo per essere stata con noi. Grazie a voi, buona serata. Dal tubetto di dentifricio alla doggy bag. Lo sapete che non sprecare è il nuovo comandamento nei consumi? Ne parliamo tra pochissimo nel focus sui trend di questa settimana, subito dopo la pausa. Essere e avere. Ci son giorni pesanti come incudini, grigio noia, piagati d'abitudini. Ti viene voglia di rompere col mondo e di lasciarti andare là sul fondo. Poi ti guardi allo specchio e ti dai nel deficiente, perché lo sai che della vita non si butta via niente. Di nuovo in studio con Essere e Avere. Oggi più che mai questa canzone ci aiuta ad introdurre il tema del focus sui trend di questa settimana. Parliamo di consumi antispreco e lo facciamo a partire da una domanda, questa: e voi? Siete fra quelli che tagliano il tubetto di dentifricio prima di buttarlo? Ebbene sì, tagliare il tubetto di dentifricio, ma anche di shampoo, di crema, in grado di trattenere, pensate, fino al 10% di prodotto, è diventata una delle abitudini simbolo di un certo stile di vita che fa della filosofia antispreco il punto di riferimento per tutto quello che riguarda i consumi. Ne parliamo come sempre con la nostra esperta di nuove tendenze, Patrizia Martello di Memetic Lab. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno a tutti. Dal cibo all'acqua fino alle risorse energetiche, passando per tutto il resto, complice la crisi e le istanze ambientaliste, non sprecare è diventato l'imperativo di questi anni, Patrizia. E lo sarà anche in futuro. Non sprecare è definito addirittura come undicesimo comandamento da Antonio Galdo, autore del libro e del portale omonimi, in cui si trovano idee, suggerimenti, consigli, notizie utili proprio per non sprecare. Non sprecare che cosa? In primis i beni materiali, cibo, acqua, oggetti, soldi, risorse naturali, ma anche i beni immateriali, la salute, il corpo, il tempo, i talenti. Non buttare via niente è l'obiettivo di quote crescenti di consumatori che, tra crisi e sostenibilità, per riprendere l'esempio emblematico del tubetto di dentifricio, sono consapevolmente irritati da packaging che costringono appunto a buttare nella spazzatura un po' di quello che si è acquistato e si aspettano e cercano confezioni, per così dire, più generose, cioè pensate per farsi svuotare fino in fondo. Ed ecco che in settori come quello alimentare, quello della detergenza e dei cosmetici, alcuni marchi riprogettano i propri contenitori. La Prairie Cosmesi di lusso fornisce, per esempio, nelle confezioni delle creme al caviale, contorno occhi, spatoline per ripulire i barattoli fino all'ultimo velo di crema. In altri casi il cambiamento riguarda confezioni, per esempio, trasparenti, che segnalano visivamente la fine del prodotto contenuto, che quindi viene pagato e usato al 100%. Ed è il cibo il protagonista al centro delle strategie antispreco, il fiorire di libri, blog, programmi TV a tema per cucinare con gli avanzi, per esempio, ne è la prova. Cucinare cioè con gli scarti, usando dalle radici dei porri alle bucce delle mele, alle croste di grana, gambe di broccoli, perfino la polpa residua delle spremute, insomma con tutto quello che di solito non si usa e che può diventare in realtà ingrediente nobile anche per grandi piatti. Quindi la cucina di casa diventa un luogo di sperimentazioni radicali che investono anche non solo il che cosa, ma il come, cioè le modalità di preparazione e di cottura dei cibi. Un esempio estremo ma significativo di queste nuove sensibilità allargate antispreco: i menù cotti in lavastoviglie a basse temperature tra i 55 e i 75 gradi dentro vasi di vetro o sacchetti per il sottovuoto. L'ideatrice nonché autrice del ricettario Cucinare in lavastoviglie è la eco blogger cuoca Lisa Casali. Sul fronte energetico, la nuova diffusa sensibilità ambientale attiva la voglia di sapere quanto consumano le nostre case e dunque dispositivi elettronici, appunto, che calcolano in tempo reale i consumi domestici, elettricità, gas e soprattutto acqua, sono entrati nelle case per contenere, per esempio, lo spreco di acqua nella doccia, con segnalatori sonori che scandiscono i litri che scorrono e così via. E anche le costruzioni e le infrastrutture non sono da sprecare, e l'architettura riciclabile, quella smontabile, propone progetti volutamente transitori all'insegna proprio del loro riutilizzo grazie a a formule di decostruzione progettata. È interessante il progetto Shooting Venue, realizzato dallo studio berlinese Magma Architecture a Londra, nel villaggio olimpico, in occasione delle Olimpiadi dell'anno scorso, tre padiglioni destinati a differenti specialità sportive, ed è già previsto che siano smontati e che le loro strutture vengano recuperate e riassemblate nel 2014 a Glasgow per i Commonwealth Games. E sta entrando nelle abitudini anche degli italiani la cosiddetta doggy bag, il cartoccio con cui si porta a casa dal ristorante il cibo che non si è mangiato. Il Buono che Avanza è la prima rete di ristoranti ad avanzi zero, un progetto contro lo spreco dell'Onlus Cena dell'Amicizia, associazione che da 40 anni si occupa di persone senza dimora a Milano. Ne abbiamo parlato con uno dei volontari, Massimo Acanfora. Una cosa che abbiamo notato di queste persone è che non sprecavano mai nulla, probabilmente perché sentivano il bisogno di non buttare nulla proprio per la loro condizione. Allora abbiamo deciso che questa modalità di agire dei nostri ospiti poteva essere la chiave per proporre ai cittadini di non buttare via le cose, e abbiamo provato a coinvolgere in questa iniziativa una serie di ristoranti milanesi e non solo, creando la prima rete di ristoranti a spreco zero. Quindi l'intento è un intento di sensibilizzazione, educativo quasi. Certo, noi facciamo in modo che i ristoranti propongano ai clienti di non buttare via quello che avanzano nel piatto, ma di poterlo portare a casa e riutilizzare nella propria cucina o in un altro modo. Come è stato accolto inizialmente il progetto? Come è cresciuto? Il progetto è stato accolto in maniera molto favorevole da alcuni ristoranti particolarmente sensibili, che ne hanno fatto anche una loro bandiera, un loro modo di caratterizzarsi. Piano piano si è sviluppato, accogliendo anche richieste di ristoranti di qualità sia a Milano che non. Piano piano è arrivato a alcune decine di ristoranti, di cui si può vedere il nome sul sito di buonocheavanza.it. Patrizia, doggy bag, ma non solo, oggi si parla anche addirittura di cibo condiviso. Di cosa si tratta? Sì, in Germania si sta sperimentando la versione evoluta della doggy bag, quella domestica 2.0, diciamo così, è il food sharing, cioè la condivisione degli avanzi grazie alla rete. Lanciata lo scorso 12 dicembre in 6 città, Amburgo, Colonia, Monaco e nell'immancabile Berlino, foodsharing.de è una piattaforma web per mettere in rete il cibo non consumato, e sono già più di 2.500 i cittadini germanici coinvolti. Dagli spaghetti alla birra, omogenizzati, cioccolata, frutta e verdura, qualsiasi cosa, chi ha in casa un alimento che sa di non riuscire a consumare. Capita dopo una cena con amici o al momento di svuotare il frigo prima di un viaggio, uno spostamento non programmato prima delle vacanze, lo può mettere in questa vetrina indicandone la data di scadenza e quella di ritiro dalla casa dell'offerente. Gli scambi sono gratuiti, all'insegna appunto del non sprecare, e autoregolati da una sorta di comandamento base, ovvero non rifilare agli altri quello che tu stesso non mangeresti. Valorizzazione e rimessa in circolazione di cibi in scadenza, non solo a casa, grazie alla rete, non solo nei ristoranti, le doggy bag, ma anche al supermercato. È il caso della cucina di The People Supermarket di Londra, questa cooperativa supermercato gestita interamente dai clienti soci. Si chiama The People's Kitchen, è la cucina del riciclo alimentare gestita all'interno del negozio dall'eco-chef Arthur Potts Dawson, già promotore nonché proprietario di ristoranti sostenibili, che prepara piatti take away per i clienti con la frutta, la verdura e i prodotti in scadenza, che in questo modo non vengono sprecati, circa un centinaio di chili di fresco a settimana. I dati sullo spreco di cibo sono veramente sconcertanti: circa la metà del cibo prodotto nel mondo, 2 miliardi di tonnellate secondo le ricerche, non viene consumato e finisce nella spazzatura senza essere riciclato. In Italia sono più di 10 milioni di tonnellate per un valore complessivo di 37 miliardi di euro. Partendo da questa considerazione, Last Minute Market, società spin-off dell'Università di Bologna, da anni porta avanti progetti territoriali volti proprio al recupero sostenibile e solidale dei beni invenduti, cibo, ma non solo, anche farmaci o libri. Nel recupero degli sprechi, Last Minute Market è divenuta un'eccellenza europea che ha spinto il Parlamento europeo a proclamare il 2014 anno europeo contro lo spreco alimentare. Cosa c'è di nuovo a Cosa c'è di nuovo a Chicago sui consumi antispreco? Bentornata anche alla nostra Urban Watcher Alessia Zampano. Ciao Alessia. Ciao, grazie, buon pomeriggio e buon anno a voi. Cosa succede quando la scarsità diventa un modello di business? The Donut Vault è una pasticceria che ogni giorno produce un numero limitato di ciambelle, i popolari donut appunto, e appena l'ultima è stata venduta chiude i battenti, per poi riaprire il giorno dopo. Dall'orario di apertura alle 8:30 circa del mattino, nel giro di poche ore fa il tutto esaurito. In questo modo le persone sono incentivate ad accorrere prima della chiusura, per assicurarsi prodotti appena sfornati e senza dubbio di giornata. Considerato che per gli americani le ciambelle sono l'equivalente della nostra brioche, quale migliore strategia per aumentarne l'appeal se non quella di aggiungere un pizzico di scarsità programmata a un prodotto così diffuso? Se in più tutto ciò garantisce zero sprechi e una gestione sostenibile, il tutto viene percepito da parte dei consumatori come un valore aggiunto in termini di onestà, trasparenza e garanzia di qualità. È come dire, produco al meglio delle mie possibilità senza sprecare e scelgo di non sacrificare la qualità in nome di un guadagno maggiore. E a guardare le immagini della coda di persone che ogni giorno si forma all'angolo della via, non ci sono dubbi sulla riuscita dell'operazione. Grazie Alessia. Patrizia, molto interessante questo concetto della scarsità programmata, un concetto rivoluzionario dopo l'iperconsumismo, l'iperproduzione degli anni 80 e 90. È una formula che potrebbe fare scuola, produrre, vendere, consumare, per così dire, quanto basta per avere una società sostenibile dal punto di vista ambientale, ma anche etico e sociale, potrebbe appunto fare scuola? Ma direi che quanto basta è proprio una parola termometro del presente e del futuro. Le cose di cui c'è scarsità sono quelle, sappiamo, a cui diamo valore. E adesso siamo sempre più consapevoli che persino gli elementi basici, acqua, aria pulita, terre coltivabili, sono elementi che scarseggiano. E sul fronte dei consumi, della produzione, modelli di business legati alla scarsità programmata, come l'ha definita Alessia, testimoniano da un lato la crescente coscienza della finitudine delle risorse, dall'altra il necessario cambiamento culturale e strutturale che deve essere intrapreso da produttori, distributori e consumatori. Essere avere @radio24.it, scriveteci, aspettiamo le vostre idee e i vostri suggerimenti. Se vi siete persi qualcosa trovate questa e le altre puntate sul sito radio24.it, sezione podcast e programmi, e sulla nostra pagina Facebook. Veniteci a trovare anche lì. Tutto questo in attesa di risentirci come sempre domenica prossima dopo il GR delle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.